Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Volevo dire la mia, anche se in ritardo, sulla sentenza di un tribunale spagnolo che ha stabilito la rimozione dei crocifissi da una scuola. Vorrei che si ragionasse in maniera razionale su questo fatto, nel senso che la presenza di un simbolo religioso non costituisce di per sé una contraddizione con la Costituzione laica di un paese democratico. Il problema nasce quando, sempre per la Costituzione, si dovrebbe garantire la presenza di ogni altro simbolo religioso, ma, a rigor di logica, sempre per lo stesso motivo si dovrebbe ammettere anche la presenza di ogni altro simbolo politico, idolatrico, massonico, eccetera. Di fatto, quello che deriva dalla Costituzione è un sillogismo difficilmente smontabile. Lo dice sia l'articolo 3, uguaglianza sia formale ma anche sostanziale dei cittadini, che devono poter sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale, che gli articoli 7 e 8. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti, e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge. Quindi la deduzione logica che deriva dalla Costituzione è: tutti i simboli devono poter essere mostrati da ciascun individuo. Poiché sostanzialmente in una scuola non è possibile garantire una cosa del genere, è giusto che nessun simbolo sia mostrato, per salvare almeno il concetto di uguaglianza formale. E sia chiaro che con ciò non voglio dire che l'espressione sostanziale di un individuo debba essere vietata o censurata in ogni luogo per salvare quella formale, ma solo che in determinati luoghi pubblici, che hanno una destinazione specifica, diffondere la cultura, amministrare la giustizia, fare le leggi, la funzione sociale e collettiva di quel luogo ha la precedenza sull'espressione simbolica del singolo o di una moltitudine di singoli. Alla fine, tutto ciò non è poi un dramma se si pensa che rimangono sempre le piazze, le proprie case, i luoghi di culto, i parchi, le TV, le radio, i giornali, eccetera, per poter mostrare a tutti i crocifissi, stelle di Davide, bandiere e sciarpe della Juve. Emiliano. La legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere applicata unitamente alla legge sulla sicurezza del 1956, che è ancora in vigore. Purtroppo, anche nei luoghi dove risulta applicata, noto che ci troviamo di fronte a planimetrie e istruzioni spesso incomprensibili. L'incidente di Torino è stato causato da un grosso tubo che era precedentemente adibito a scarico dei servizi. Detto tubo era sostenuto da fili di ferro. Se non era più utilizzato, andava demolito. È importante applicare la buona tecnica e non solo eseguire operazioni di facciata. Ritengo che le competenze riguardo alla buona tecnica impiantistica siano rare, anzi, molto rare. Di queste cose se ne parla solo nel momento in cui succedono delle tragedie, e poi ce ne dimentichiamo. Una nota riguardo agli ispettori o comunque chi dovrebbe ispezionare le scuole e i luoghi di lavoro. Il loro operato è molto spesso encomiabile, ma cosa dovrebbero fare? Chiedere la chiusura dei luoghi non sicuri? Si chiuderebbe quasi tutto, ma forse è davvero ciò che si dovrebbe fare. Costi quello che costi. Poi, oltre a quelli bravi, credo ci siano anche ispettori che vanno a fare i controlli all'ora di pranzo, solo per pranzare a spese di altri. Distinti saluti, Roberto. Gentile direttore, ho sentito la trasmissione sulla povertà dei padri e delle madri dopo le separazioni. Ma un padre separato non è povero perché è separato. Più semplicemente, in Italia tutti coloro che vivono da soli con meno di 1000 euro netti al mese sono poveri. Nell'Italia di oggi non è possibile vivere da soli e pagarsi un mutuo o un affitto con meno di 2000 euro al mese. Questo vale per noi in Toscana. Forse al sud va un po' meglio, ma nel nord non credo proprio. Gli anziani se la cavano solo se vivono in due, se la casa l'hanno già pagata, se hanno qualcosa da parte, se qualcuno li aiuta. Tanti se la cavano perché c'è ancora un po' di economia in nero. I giovani che si devono pagare il mutuo sono dei disgraziati, oppure degli stacanovisti, che fanno il doppio lavoro. La stragrande maggioranza delle giovani famiglie di oggi, per fortuna, la casa se la ritrova perché la riceve dai genitori. Siamo diventati un paese dove, con un lavoro onesto da 40 ore la settimana, non si va più da nessuna parte. Questo è veramente terribile. Questo impoverimento inesorabile, che data ormai da anni, che l'euro ha certificato e completato, da cosa dipende? È accaduto lo stesso negli altri paesi europei e avanzati? Non so perché i media parlino così poco di questa situazione così brutta. forse perché riguarda ancora una minoranza, mentre la maggioranza del paese ha un reddito ancora più alto. Ma anche chi guadagna 3, 4, 5 mila euro al mese, se a casa e famiglia, se non ha ereditato delle scorte dalla famiglia, di certo si accorge di questo impoverimento. Non è il caso di approfondire e denunciare questa situazione? Io sono fra quelli che pensa che il principale responsabile sia un fisco rapace, che non premia gli onesti, ma li martella, che non incoraggia l'emersione dal nero, anzi la punisce. Poi, sicuramente, ci saranno altre ragioni. Ma intanto, se la politica volesse decidersi ad aggredire la spesa storica, gli sprechi, i costi della burocrazia, e volesse lasciare in tasca a tutti i lavoratori almeno i primi 1.000 euro guadagnati ciascun mese, quelli che servono per vivere, forse si potrebbe tornare a guardare con un po' di speranza al futuro. Mauro, Pisa. Cara Radio 24, un vostro radioascoltatore nella rubrica delle lettere lamentava il fatto che mentre dallo scorso luglio ad oggi il prezzo del greggio era calato di 2/3, la stessa riduzione non si era per nulla verificata sul costo dei carburanti alla pompa del distributore. A tal proposito, è necessario precisare che l'incidenza percentuale della materia prima sul costo finale del prodotto è di circa il 30%. Il resto riguarda l'imposta di fabbricazione e l'IVA. Se pertanto si parte da un prezzo iniziale della benzina di 1,40 euro, il 30% risulta 42 centesimi di euro di materia prima. Togliendo 2/3 alla cifra di 42 centesimi, otteniamo la cifra di 14 centesimi di euro, che corrisponde al calo del greggio. Quindi 1,40 meno 0,14 dà 1,26, cifra che, più o meno, corrisponde alle attuali quotazioni. Nota bene, non sono un petroliere. Angelo, da Genova. Premetto che ho 42 anni, sono laureato in ingegneria e dirigente di una multinazionale delle telecomunicazioni e che, da quando ho iniziato a votare, ho sempre votato per partiti di centro o di destra. E le mie idee sono sempre state molto distanti da tutti i partiti di sinistra. Ho uno stipendio che mi permette una vita agiata, ma non mi posso certamente definire ricco, mentre le statistiche dicono esattamente il contrario, e cioè che sono più ricco del 99% degli italiani, e solo l'1% è più ricco di me. Ma guardandomi attorno, non mi sembra proprio. Nonostante le mie tendenze verso destra, durante l'ultimo governo di sinistra ho avuto la netta e positiva impressione che il governo stesse realmente cercando di fare qualcosa per combattere quello che è uno dei principali, o forse il principale, problema dell'economia italiana, e cioè l'evasione fiscale, che scarica la maggior parte del peso delle tasse sui lavoratori dipendenti. Ragion per cui c'è una differenza inaccettabile tra il mio stipendio lordo e quello netto. Da quando invece si è insediato il governo Berlusconi, ho avuto l'impressione esattamente opposta, e cioè che il governo stia perlomeno abbandonando la stretta sui controlli e le nuove regole che avrebbero permesso perlomeno di diminuire questa piaga tipicamente italiana. Questa impressione mi è stata confermata da una sorta di fanatismo per il nostro primo ministro da parte di molti amici e parenti che hanno attività in proprio, oltre che dal fatto che nei giornali, alla TV e alla radio ultimamente si parla di tutto, ma non si parla più dell'evasione fiscale. Potete ricordare, nelle vostre rubriche, che il problema dell'evasione fiscale in Italia c'è ancora? E risolverlo, o perlomeno diminuirlo, vorrebbe dire risolvere o diminuire i problemi di buona parte della popolazione italiana, ovviamente a scapito di altri che non ne sarebbero molto contenti. Carlo. Da piccolo imprenditore, posso solo dire che i provvedimenti che andrà a varare il governo per stimolare la crescita dei consumi sono solo palliativi inutili. Al di là di tutto, il problema attuale non è il credito alle imprese, ma il lavoro. Mancano le commesse, punto e basta. Io parlo del settore metalmeccanico, tutto è fermo, con colossi dell'agricoltura, macchine movimento terra, carrelli elevatori, rimorchi e allestimenti vari, fermi per tutto novembre, dicembre e gennaio 2009. Non saranno patetiche carte simili annonarie, IVA di cassa o blocco di tariffe già aumentate, pur a fronte della diminuzione dei costi di acquisto di gas, petrolio e altre fonti energetiche, a renderci la vita meno grama. Peccato. Come sempre, manca la serietà. Indipendentemente che siano la destra, da me votata, o la sinistra a governare. Tassano ancora i miseri frutti dei depositi bancari al 27%. Ma si può. Perché devo pagare l'IVA al 20% sul gas per consumo domestico? Siamo al ridicolo, come sempre. Lettera firmata. Direttore Fabi, Berlusconi chiede di essere ottimisti di fronte alle dichiarazioni allarmistiche che arrivano da Mario Draghi e altre figure, rilevanti istituzionalmente sia italiane sia straniere. Ora, a parte il fatto che Berlusconi, quando dice che le sue dichiarazioni relative alla crisi devono essere improntate all'ottimismo, e quando afferma che la crisi sarà profonda, produce come risultato che i cittadini capiscono che la crisi invece sarà catastrofica, come facciamo noi italiani, dopo aver assistito alla promulgazione di leggi ad personam, ad essere sicuri che l'ottimismo del nostro presidente non sia dettato dal tentativo di salvaguardare i suoi interessi in Mediaset, Mediolanum e così via? Esiste o non esiste un conflitto di interesse che qualche autorità sia in grado di sollevare? Domenico, Roma. Caro Domenico, il tema del conflitto di interessi è certamente importante. La politica italiana avrebbe dovuto affrontarlo e risolverlo prima che si ponesse in tutta la sua evidenza. In questa fase, tuttavia, mi permetta, se ci riferiamo alla crisi economica, non mi pare corretto parlare di conflitto, ma casomai di concordanza di interessi. Certo, se il Paese riuscirà ad uscire dalla crisi riavviando il percorso della crescita, se ne avvantaggeranno anche le aziende in qualche modo collegate al Presidente del Consiglio. In questo caso, gli interessi sono convergenti e comunque restano più importanti gli interessi del Paese, dell'intero Paese. Non facciamoci del male da soli. Un piccolo ragionamento sui ragazzi che hanno confessato di aver fatto una bravata incendiando un senza tetto e riducendolo in fin di vita. Complimenti intanto a chi riferisce questa confessione come la bravata dei bravi ragazzi di buona famiglia. Ma che concetto è la buona famiglia? Forse la posizione sociale, non certo l'impatto educativo di questi genitori di buonissima famiglia, che non sono nemmeno riusciti a trasmettere ai propri figli un minimo, ma veramente minimo, concetto di moralità. Il guaio è che la moralità non esiste più. Incendiamo le persone e facciamo bravate. Crollano le scuole e sono fatalità. Tommaso. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.